Oddio, Aidos. Non ho neanche letto, sono un campione. Ai ai. Sì. No! Qualcuno deve abusare di questa meccanica per salvare qualcun altro. Ah. È stato molto Rox da parte tua. Sì. Adoro. I'm in the middle of something, I can't do anything, proprio. Proprio, sì, proprio, come se li dovessi zittire. Sì. Assolutamente no. L'esatto opposto, proprio. Continuo a stare seduto sulla panchina guardando nel vuoto, ma svolto un pochettino gli occhi verso di loro, sempre vuoti. Ah, io non mi ricordo cosa stavo facendo, però mi appoggio nonchalantly al muro. Ah. Ok, allora la colonna, vai. Che è di nascondere, tipo, la droga, gli cade dalle mani, no, metti dentro, non si sa mai, dammi, la metti dentro. Giustamente. si ammazza! No, ok, scusa. Naya fissa il cadavere di Bea e non dice niente. Cioè, è immobile, non ha espressioni e proprio non capisce niente, non sente niente, non è in grado di capire niente in questo momento. Oh no. E Naya è ancora in uno stato assolutamente confusionale, non si rende conto, cioè sta vagamente cercando di capire cosa stia succedendo, ma non riesce, cioè non ce la fa a capire quello che è successo, e balbetta un proprio sottovoce un no, non io non si gira verso sì, però non riesce a guardarlo dritto proprio negli occhi, lo guarda in faccia ma non Oh. Evviva, anche perché non riesco ancora a visualizzarlo sta roba. Ah, ok. Ah, in quel senso, ok. Allora, devi proprio fare sta cagata, vabbè. Rick, stai zitto, shut the fuck up. Stai zitto e porta rispetto alla storia o ti ammazzo. Boia! Vai, qua siamo fortissimi. Non fare 10. Ma ancora, ma che palle, ma stessi qua, non farò mai un cazzo. Rick. Dunque. Ma non sono io per priorità. Rindor ha fatto 6. Prima di tutto voglio sapere se è riuscita a passare il tempo necessario per trasformare sta roba. Porca madonna, vabbè. Va bene. Mi hai detto che insomma, lui sta scastando delle magie difensive, no? Quindi ancora questi triangoli non sono apparsi, giusto? E questo è un problema tuo. Ok. Danno l'idea di essere fragili o parte di qualcosa? Ma sono immateriali questi triangoli? Ma in questo momento siamo in caduta libera, non ho ancora capito, cioè, o siamo già caduti? Come delle sabbie mobili. Le panchine sono alte anche loro affette da questa cosa, quindi. Molto bene. Soffitto invece è solido? O anche questo sta sciogliendosi insieme a tutto? Non è che abbia corde, quindi insomma non è che posso neanche provare a sparare. Quanto è difficile muoversi in questa situazione? Ok, voglio provare a muovermi cercando. Ma idealmente, visto che Ivan, rispetto alla mia prospettiva, è vicino, magari provo ad avvicinarmi verso di lui, come, cioè istintivamente mi viene da chiedere una mano, comunque, quindi sì. Dialettica? Ok. Va bene. Niente. Damn. E tipo, sì, ragionando che appunto funzioni come acqua, provare a nuotare in questa specie di acqua è più comodo, meno comodo. Ah, ok, molto bene. E niente, direi che tanto non è che abbia molte cose, non è neanche in un range particolare per qualche cosa, quindi sì, direi che rimango, cioè, a meno che non vado con Shock Tendris, però penso che, insomma, se è, ha anche le proprietà dell'acqua, io non ci terrei, insomma. Esatto, quindi preferirei evitare questa situazione dove elettrifico mezzo pianeta, quindi... Quindi per ora mi limito solo ad avvicinarmi verso Ivan, magari appunto, visto che lui è uno strength. Beh, non è che abbia altre mosse, quindi sì. Mi sembra uno strong man, quindi mi cerco di appigliare. Ok. Ok, this is breaking me. This is like in my worst nightmare. Allora, provo a muovermi anch'io, I guess, per testare how is it going. Quindi quanto ho di più o di meno? Ok. Ok. Mi provo a muovere verso il gruppo, cercando di prendere magari Erindor, magari lo prendo per la collottola e lo trascino dietro. Mi muovo normalmente, sì. Ah, una cosa, scusa. Quelle ci sono... C'è ancora, quindi, un parte del recinto. Sono... Ma si sta lì si sta liquefacendo anche la recinzione oppure no? Ok. Mantiene la struttura di cose, però si sta come un ghiacciolo che si scioglie sostanzialmente. Ok. Ok. Ok. No. L'ultima sessione avevo fatto un XP, giusto? Posso usare Bright Hands su Beatrix anche se è inutile? Damn. Rod è accanto a me, giusto? Dio. Ok. Lo prendi per i piedi, torna giù. No, non penso proprio. Oh, aspetta. No, mi ho fatto quello. Vabbè. Naya prova comunque, cioè prova a fare questa cosa e vede che non ha effetto, cioè è difficile. Cioè ci prova un paio di volte, rifà gli stessi processi che andrebbero fatti per fare questa... Ah, fai una foto dopo passare su. E così almeno vedo che cazzo mi fa il culo. E Naya, cioè, gli occhi che iniziano a lacrimare, cioè non è che scoppia a piangere, però stanno andando, i suoi occhi vanno. E quando vede che è la terza, la quarta volta che prova a fare questa cosa e non funziona, si gira verso di Rod e gli chiede, cioè, vede quello che gli è successo, ma non riesce assolutamente a comprenderlo, è una cosa che non può capire. Si gira verso Rod e lo fissa sempre essendo davanti a Bera, e gli chiede se c'è qualcosa che Naya può fare per aiutarla, se si può salvare. Naya si gira istantaneamente verso Kiel e le chiede se c'è qualcosa che si può fare, glielo continua a chiedere. Naya non ce la fa, tutto quello che sta succedendo è 4 volte più grande di lui. Ha provato Bright Hands e l'unica cosa che gli viene da fare è Invoke Fate. Sì. Sì. Ma sai che io ho i tarocchi, se vuoi posso pullare dai miei tarocchi. Sì, arrivo. Arrivo. Eccomi. Sì, sì, ce l'ho sotto mano, aspetta. Ma quindi che Kiel sta letteralmente lì, sta facendo la smarchi mentre sprofonda tranquilla, non ho capito. Ma quindi è un'illusione, cioè è una percezione alterata, no? E non lo sai. Beh, lo sto supponendo io persona, no? Sì. Arrivo. Pesco. Beh, fai fare Zanzan, così la faccio meglio. Zanzan, io sono ancora vicino a Ren, vero? Ok. Onestamente, stiamo ancora cadendo, immagino, cioè siamo ancora tutti in questa stazione. Cambio mobili, ok, sì. E vabbè, Zanzan cerca di afferrarla, o comunque di aiutarla, ecco, per visto che non è in una bella situazione. Le giornate, dipende, questa è... più diversa del solito, non è sempre così forte. Tieni. Che cos'è? È un 6 di coppe. Damn! Allora, con Horoscope tecnicamente gli devi dire tutte le spell, la classe di appartenenza e tutte le feature. Porco Dio! E il chart astronomico, il segno. No, ma io non voglio uccidere Rod. Ok. Mi ammazzo se lo faccio. Mi ammazzo due volte. Ci metterò un attimo a leggere tutta sta roba, quindi. Oh, un po' scomodo, se posso. Si mette in un cielo. Non tipo, e srotola la pergamena, sì. Tipo i messaggeri di Asterix. Esatto, gli occhialini da lettura. Mentre sprofondiamo tutto. Oh, è traumatizzato, quindi non vi dice un cazzo. Ve lo dico subito. Zanzan prova a usare Gust per cercare di spingersi verso l'alto. Sì, era una delle prime che mi hai dato. Faccio zero. Ah, è vero. Ok, allora niente. Sono finite le cose che Zanzan sa fare a questo punto. Se provo ad osservare lui, immagino non vedo niente di più di quello che ha ottenuto Naya. Ok. E niente, rassicuro Ren che andrà tutto bene. E tiri fuori il pistolone e comincia a sparargli. No, vabbè, cioè, è ancora con noi lui prima, quindi non lo so se... cioè, non era della mia compagnia, non voglio necessariamente ammazzarlo. È letteralmente fluppante, ti sta facendo sprofondare. Io non dico niente. Mi ha ancora fatto del male, no? No. Cioè, adesso... Ah, onesto, vabbè. In sesto senso hai intendito. Il fatto che sto cadendo nel vuoto. Sì. Ah no, vabbè, è preoccupato, però per adesso non fa niente. Cioè, non scaglia la prima pietra, mettiamola così. Sì. Grazie. No, mi sa che non fa niente, cioè usa horoscope e si alza in piedi e fissa Rod, cioè continua a chiamarlo anche se non sente. Allora, la porta della chiesa adesso è aperta, anche erano entrati i soldati. Ok, allora, io sono lì alla colonna, casto Gravity, riesce a farmi giù il cerchio di quanto è grande sulla mappa di nuovo, così lo posiziono. Allora, un'area di sferica di raggio S, di raggio S, tanto lo faccio vicino a me. S-E? Cos'è? 3. Ok. Puoi mettere tipo il centro qua. Cosa stai cucinando lì? Qui. Sì, va benissimo. Allora, tiro su, quindi più leggero, e mi levo dal cazzo, perché posso fluttuare, ho controllato, cioè si fluttua nella gravità bassa. Mi scalcio contro la colonna, verso il portone, cerco di raccattare anche Ivan e Erindor se posso, e gli dico, è meglio se ci leviamo dal cazzo. In qualunque modo diretto urlato vuoi. No, cioè, il momentum viene mantenuto anche al di fuori dell'area? Come funziona? Beh, è gravità bassa, poi torna a gravità normale. Ti slanci. Wow. Esatto, quindi direzione... No, non voglio essere portato. Io voglio essere portato. Ok, allora Ivan rimane, io prendo Erindor, vado verso il portone della chiesa. Ok. Grazie. Sì. Sì. No, le ho lette. Io vai, Bianic. Cosa lo definisce combattere Rob? Perché al momento io e Ghidi e le compagnie siamo di cattivo. Vai. Vedi che la codardia ripaga. E delle teste di cazzo. Zanzan com'è considerato? No, dal turno precedente lui è ancora lì, è un codardo. Sì. Ma tutti gli altri? Spia. Vai, Bianic, dimmi quanto. No. Non odia lei. Adesso non lo so. Cazzo è dialettica 2. Sì, ma... Jin? Il pensiero è ancora alla moglie o è... Jin? Jin? Si sente? Sì. Ok, è da 5 minuti che sto dicendo non ho intenzione di fare del male a sto tizio. Non sono in combat. Vai, vieni, ci fai del tuo meglio. Oddio, vieni qui, Naya! Entra dalla porta e mi riempie di botte. Quindi per qualcuno il flashback di sopravvivenza ci sarà oggi. Forse, non ho ancora deciso. No, cioè ho visto dei numeri e ho detto... Me lo dice Bianic quando è il momento. Ciao, è stato bello. Dai, Polverizzata. Come non muore? Ah, ok. Culo. Svenuto si possono fare Cilindro cose. magico. Leggere il testamento. Raga, datemi un momento per favore. Naya mi sta morendo fra le mani, ok? Abbiate pietà. Ripetimi come funzionano le memorie piani. Nel senso, devo sceglierlo adesso o posso dirlo il turno dopo? Posso dirtelo quando raggiunge meno 6 o devo dirtelo adesso? Sì, non fa nulla. Quando succede sta cosa, cioè lui cioè, guarda verso Rod e non è in tipo situazioni di attacco, non vuole difendersi, accetta quello che sta per succedere. Lo accoglie, even, se vogliamo. Dov'è ovest? È La mappa è esatto. orientata verso nord? Ok. Oddio. Ok. Aspetta, il portone dov'è che è? Sud. E le scale per il piano di sopra? Ok. Allora, io noto che KL si sta facendo i cazzi suoi, nel senso non sta venendo, non sta subendo nulla di quelle cose, e dato che siamo insieme a Gideon, un partner in crime, gli faccio. Non è strano che KL non stia minimamente presa da tutto quello che sta succedendo intorno a noi? Che sia tutta una cosa. KL hai detto, no? Lei non sta neanche subendo l'effetto sabbia mobile, come l'hai detto. Non è che questa cosa è tutta nella nostra mente, non ci siamo mossi per anche dire una stronzata, però. Sì, beh, sì, sto cercando di fare confabulazione. È possibile. Sì, Sì. È si è aggrappato e dico. possibile, probabile. Ci pensiamo una volta che siamo fuori dal portone a fare le varie considerazioni. Fair enough. Quanto è vicino il raggio rispetto a noi, quello che è rimbalzato? Urca. Urca. Uno dei il cadavere vivente che c'era. Il tizio mezzo curato di prima. Beh sì, forse è meglio come dici tu di cose. Quindi, Fungi in particolare. come posso, sono mid-air, non credo che mi posso propellere in altri, una scoreggia. Ok, va bene. Allora, è nuovo. Ok. Va bene, però cioè, stiamo fruttando come mi muovo e sto facendo fatica a visualizzare questa cosa. Ah, ok. Proviamo allora, sì. Decisamente dopo quello che è successo a Naya, io non voglio essere lì vicino a sta cosa. Ah, tutto nella mia testa, è tutto nella mia testa, e tanto corro velocissimo. Il mio mignolo è morto. Auci, lo stinco. Sì, immagino. Allora, the Dove l'ho visto issue is nascosta nella that mappa? Scusami, che non l'ho vista aggiornata. Allora, avete aggiornato il mio personaggio? Vabbè. Ivan can't not do anything after, dopo che è successo tutto quello che è successo in questi giorni, ha imparato che pare non si può e che deve affrontare la realtà. Quindi qua, voglio sapere una cosa, quindi questo personaggio qua che ci sta attaccando è a grieving character, ok? E da quanto tempo non si muove, come si chiama, Bea? Cerco di andare verso Bea. Ok, cerco di fare la rianimazione, cioè cerco di fare una rianimazione manuale. Ah, proprio. A meno che io non sappia fare una terza cosa che posso fare da svenuto. Zanzan, Zanzan a questo punto però non è contento. Cioè Naya non gli stava simpatica, ma per me una ficca naso, un ficca naso. Mettermi sgenderare Naya, poverina. No, non si può. Zanzan non conosce la differenza. No, intendevo. sono riuscito a vedere gli altri che si muovevano chiusi. Sì, e si sono mossi meglio del... Ok. Però comunque Ivan si è mosso meglio. Ok. With the job, sì. Vabbè, prendo la sacchetta di droga, la metto in mano a Ren, tipo, me do un pack sulla spalla, tipo, tienila, nel caso, brinda, e mi lancio verso l'angelo. esatto. E direi che non malmeno. Con sì, col il calcio del fucile. Uno. Finito, posto. Io mi sono accorto che ha esitato dopo che Ivana... Penso, non lo so. Ok. Ok. Posso fare qualcosa in quanto stregone? Perché Arcane Charm è per manipolare le emozioni. Posso fare qualcosa in quanto stregone, visto che è cieco e sordo, per proiettargli addosso delle emozioni? Cioè, ok. Ok, allora vaffanculo, visto che ha esitato, mi scalcio dalla panchina verso di lui e cerco di proiettargli addosso che non gli vogliamo far male e vorremmo aiutare Bea. Cioè... compassione. Ok. Ok. Madonna, mi sto dissanguando. Ah, ok, pensavo che ero... Ok. Ok. Ok. Sì, compassione. Sì, sì, proprio, yeah. Demone in capa. Cioè, stavo per dirlo io, c'hai cioè, demone in capa. Twinsies. Sì. Quanto mi manca questa uscita? E io corro verso la porta. Guadagni in uscita. È un problema. Ti fa la multa. Lo uso come, come leva. Stavo. Sì. Provo a prendergli una mano mentre... Cioè, cerco di tirarlo giù... abbastanza piano verso di me. Mm-hmm. Sì, sì, no, nel senso si lascia prendere. Mm. E gli poso la mano sopra a Bea. Non... No, non mi, non mi sente. Non mi sente. Niente, sto zitto. Gli metto entrambe le mani sopra Bea. Cradling. Fine. Ho vinto. Dio mio. Yeah. Zanzan prova di nuovo a colpirlo. Ma... Porco. Zan. Prima non te l'ho detto, ma c'ho ancora l'effetto attivo della droga, in teoria. No, no, è solo perché prima non te l'ho detto e almeno... No. Sì. È vero! Ok. Ok, quindi l'unica cosa che speravo che non fosse reale, reale, va bene. Posso attaccare di nuovo? Posso provare a scuoterlo senza che sia considerato un attacco, tipo? Ok, è tipo... Ehi! Ehi! Mettila! Non saprei cosa fare. Ok, allora continuo. Mi sa che è finita sta interazione. Non so quanto mi rimane, ma tra lo stress e tutto non sarò più in grado di fare incantesimi né niente. Sì, continuo a buttargli addosso empathy. Non attacca. Ok. Beh, io vedo che sta ritornando al coso tutto normale. Dico, ah. Era andato anche quasi per chiamare aiuto quelli di fuori, se c'è la gente di fuori. Ah, sono tutti dentro, quindi ve la posso svignare? Allora io me la svigno, grandissimo. Ha fatto la good ending. Ma non è un gioco in cui si può vincere e lui ha vinto. Madonna. Siamo noi che giochiamo male. Ma non erano magiche, erano... Ok. Hai visto? La volevi la campagna ridotta? Madonna. Uno ha vinto, uno è morto. Io mi a cascio qua contro la colonna, sfinito. Guardo Ivan un po' scazzato e gli dico: perché non siamo scappati? Che tsundere, mamma mia. Mamma mia. Era la cosa giusta da fare, dai. Niente, lui non mi capisce, non mi sente. Io sono l'unico, cioè, no, Zanzan è ancora. Ok. Mando a cagare Kayel, proprio gli dico ma vaffangul, e do una pozione a Naya. Dio porco. Chi è Liler? Chi è Liler? Sto letteralmente mandando un messaggio adesso su. Come funziona questa pozione? Cioè, nel senso, posso indietro dai morti o cioè qual è la cosa? Sì. Just cosa enough. Ok. E cos'è che vedo? I'm finally a father. Me lo porto a casa e lo allevo come se fosse mio figlio. No, vabbè, la scena è finita. No, a quanto pare la scena non l'ho mai vista io, quindi... No, vabbè, capisco che è tutto terminato, quindi non si ferma, cioè non smette di cercare di colpire questo povero cristiano che a quanto pare si è ripreso da questa cosa, qualunque cosa fosse. E torno da Ren, riprendo il mio sacchettino e distribuisco a tutti un'unità di droga. Una droga? Sì, sì, sì. One drug. Piani, magari la porta in vita se ne dai abbastanza. No, la metto tipo nella manina a tutti quanti. La scena di Harry Potter del professore che gli dà il cioccolato, tipo quella, cioè Zanzan passa e distribuisce, tipo tieni. Commesso come si dice? Crimine di menzionare Harry Potter. Harry Potter. Porco Dio. Secondo me abbiamo perso. Cioè, altro che uccidere. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Chiudi. Abbiamo perso la campagna. Andiamo a casa. Basta. Ica. Esatto. Ica ha perso tutti. Mangiatela, mangiatela, vi sentirete subito meglio. Vabbè, allora. No, cioè, non è vero. No, non in questo momento. Non so che cazzo sia sta roba. Quindi, boh, la dico. La metti in bocca. I know this. La metto sul pavimento e dico grazie, la magno dopo. Zanzan è molto contento. Cioè ha fatto una cosa buona per lui, quindi è tipo, è sorridente, si siede tipo nell'angolino e sta lì. Madonna. Sì. Tutti quelli che non sono orizzontali. No, che io no, perché mi sta un po' sul cazzo. Naya è orizzontale però, quindi... Non no, orizzontale... E Yal giudica, quindi ci sta sul cazzo. Sì, non mi sta così simpatica in questo momento. Come dire, è un ingranaggio, neanche sarei molto simpatica. Ma non sono neanche sicuro comunque... che lei faccia qualcosa, quindi... Sì, sì, anche a lui gliene è dato il cristallo. Sì, io lo lascio cadere per terra completamente nonchalantly, senza guardarlo. E rivolto a KL le chiedo, quindi, cos'è appena successo? Wow, incredibile. Sì, sono stanco, sono un po' scazzato più del solito. Wow, insight incredibile. Devastante. Togli qualche HP. Sì, sì, sì, sì, ha proprio grindato tutti gli ingranaggi per farsi venire quell'idea, Posso? Quale allucinazione? Zenaya è vagamente cosciente. Vagamente. Posso curare dalle ferite che ha Rod, i liaghi, le robe, e... Oh, porco Dio. Neanche la macchinetta? No. Oh? Ah, ok. Ok. E pozioni e cazzi vari non servono a nulla. Io porco. Ok. E Naya si gira verso Ivan e con voce è morto, cioè nel senso è un cadavere che sta su con un HP, quindi parla ma sputa sangue quando parla e balbetta mentre ti tubercolosi dice... Non è la prima volta che vedo questo. Cioè, polmoni fritti in questo momento, Naya. E ti dice, ti sussurra proprio: portalo al medikit, per favore. Hi. Oddio. Allora, gli tolgo la mano da Bea e lo faccio alzare piano piano e intanto andiamo verso a provare a curarlo. No, lo porto in braccio, cioè il più possibile in braccio, I guess. Grande così. Oddio. Ma okay. Madonna. È un baby. Chiedo a Ivan se gli serve una moneta per far funzionare la macchina. Sì, grazie. Allora gliela sdingo. Grazie. Grazie, è molto importante. Per aver cercato di, cioè, aspetta che mi devo riordinare un attimo i pensieri. Allora, non la passerà liscia. Dimmi, Rox. Niente, scusami, l'ho saltato. Niente. Passarla liscia perché si è incazzato perché è morta. Oddio, non so che genere di relationship avevano. La sua amica. Non ci ha fatto nulla. Non ha alzato un dito contro di noi. Dai, aspetta, questo. Chi? Naya, intenzione di... fare denuncia. Di fare denuncia, Naya. Di sporgere denuncia. Naya si alza in piedi. Sta super miracolo, sembra uno di quei scheletri anatomici che stanno nelle scuole, che stanno su in piedi perché l'hai messo così. E si trascina nella loro direzione e dice... Rod non ha fatto nulla di sbagliato, va benissimo così. Io gli dico, scusa, gli dico al soldato, a me sembra che siete voi che avete packed up qui, quindi... Puoi anche lasciarci in pace per adesso. Siete letteralmente fuggiti e lasciateci qui a morire. Sì, certo. Buhu, poverine. Ha funzionato perfettamente fino adesso. Mamma mia. Naya, sì, sono sassi quando sono stati. Naya si intromette, dice per favore basta, curate Rodwood. Sì, ma io sto andando nel mentre, sto... Dammi del contesto. No, così è più, così è più divertente, è disvenuto. Amo. Okay. Okay. Sta di pollo, senti, proprio. Senti l'odore, cioè, nell'aria c'è proprio l'odore di carne bruciata. Fiamme, barbecue. Mm. Ok. Mm-hmm. Okay. Ciao. No, sì, che è passato mio fratello, scusa. Okay. Ci stavo. E Adone si guarda un attimo attorno. in maniera confusa, naturalmente, e dice: cosa diamine è successo? E guarda il primo che c'ha vicino, Zan Zan, che è lì vicino. Not the most reliable narrator. Lo stai chiedendo, sì, a Zan Zan, quindi? Sì, Zan Zan in realtà ha visto poco a questo punto del... Cioè, non è successo praticamente niente per lui? Esce con martedì sera. No, nel senso di... Che lui l'allucinazione non l'ha subita. Ok, quando Bea è caduta... Zan Zan lo sa che è morta Bea, perché... No, allora... Ok, allora l'abbiamo presa. E dopo la morte di Bea, Rodvolt si è stressato parecchio, e non so se riesce a vederlo, è nell'angolino, tipo con Ivan, e si è infilzato... Mi giro a guardare Rodvolt. Si è infilzato occhi e orecchie, corretto? Occhi e orecchie. E ha assunto una forma diversa, quasi angelica. E ha... e ha smaitato Naya. Valido. È caduto un fulmine dal cielo e quest'uomo è carbonizzato, è lì, cioè, guardalo. Adone guarda Bea, cioè, che è morta. Ah. Guai. Ok, ma secondo me Naya è lì di fianco. Ah, sono okay. Verso, cioè io in teoria sono più verso qui, perché mi sono spostato per parlare con... Sì, sì, ok, perfetto. E appunto, mentre stai raccontando, Zan Zan Adorni si gira verso Bea e la osserva e dice: ah! E fa 2 più 2 Adone. E dice... capisco, ma state tutti bene? Perché Rodvolt ha reagito così? È stato particolarmente colpito dalla morte di Bea, a quanto pare, e... Naya non mi sembra in gran forma. Per il resto gli altri sì, sono tutti a posto. Capisco, cioè, dice capisco, però lo vedi... Adesso ho capito la situazione, però comunque è morta Beatrix e la cosa lo lascia abbastanza scosso. Però a questo punto prova ad avvicinarsi verso Ivan o vede che la situazione è critica con Rodvolt? Ah no, è lontano. Ok, vabbè. È ferito moralmente. Ok. È ferito qui. Ness. Sì, ma infatti Adon andava lì più per quello che per altro. Però se sono tanto lontani, Adone va da Naya. Non ci vuole molto. Ma sono girato in quella direzione. Ok, sì. Vabbè che, cioè, penso che l'avessi capito. Magia vizia, riprendici. Vai, vai. Vai. E ti avevo chiesto una roba, ma... Posso farla anche... Ti avevo scritto una roba per non interromperti. La posso fare anche dopo, in realtà, non è su Discord. Come mi resta esplode tutta la cazzo di chiesa, quindi dica, fare attenzione. Oh, sto... Sì, okay, ho visto, visto. No, no, no. No, no, no, no. Dio mio. Police brutality. Naya. Let them fight. Quanto è distante Naya da questo? Si butta in mezzo. Butta. E Naya dice che ci sono state abbastanza morti in questo posto in un giorno solo. E Nai dice no, colpa mia. E Naya non, cioè, non ha la forza che avrebbe di solito per discutere di questa situazione. Dice a Maria semplicemente: lei era accanto a me quando il mostro ci ha attaccato. È perché l'abbiamo battuto. E Naya indica il cadavere fatto a pezzi con tutte le cose. E Naya le dice: credi pure quello che vuoi, io so come stanno le cose, lei non ha fatto niente di male. Ok. È vero. È vero, e non Naya se ne mancava. Naya è davanti a lei, tipo la gente che si lega agli alberi quando li vogliono sradicare. È così. Niente. Notice fight. Aspetta per vedere come si evolve la situazione. È proprio, è presente quel meme "I think everyone involved in this situation should die"? posso fare una piccola parentesi? No, non è vero, la faccio dopo, continuiamo a giocare seriamente. Madonna. No, volevo parlare con Naya, ma vedendo questa situazione lì. Allora, Adone vorrebbe vorrebbe intervenire e dare manforte a Naya, però non so che cazzo dire. Amici, poi quando ti inculano le bici. Vabbè, Dio cane, però ammazzati. Di nuovo. La scena la rimando dopo, in realtà, adesso. Quindi... E vado ad aiutare Naya, se non altro per evitare che si gonfino di botte nuovamente. Mi sto impromettendo con i 2,10 metri di Zanzan interi. Si fa bello grosso, si mette in mezzo, cioè... Posso prima andare a pisciare, ti prego, mi sto pisciare addosso. Datemi 2 minuti di pausa, arrivo subito. Allora vado a riprendere dovremmo... l'acqua. Yes, pausa. Infatti, secondo me, dovremmo mettere tipo qualche pausa acqua piscia, perché vogliamo stare idratati, ma qua non c'è mai non c'è mai un momento per poter andare a pisciare, no? No, grazie, sono già. Cosa c'è? Boh, lascia stare. E invece Rindor, quanti chilometri è? Quanto sta ancora correndo? Pisciò. Ok, ci sono. Eccomi. Di Supernat, vaffanculo. È una maglietta di Supernat che ho da 10 anni. Of course it is. Of course. È comoda, è la più larga che ho, è gigante. Tutti d'accordo che Rod did nothing wrong, giusto? Yep. Ottimo. C'è silenzio? I do have a problem with KL. No, sì. Io pensavo per il bot. Come è andata Vianish? Sei contento? Quanto godrò il momento in cui qualcuno prenderà Erindor per la collottola? E luci. Porco Dio, sì. E lo butta in galera? Maria... Maria on her way out è tipo, oh, eccolo qua, e lo prende proprio per la canotta e lo porta via. To be fair, se Gideon vedeva che non c'erano speranze in battaglia, era fuori a fanculo anche lui. Sì. Se Gideon avesse visto le statistiche che ha visto Naya. Gideon ha visto che ce la si poteva fare con il talk no jutsu, e quindi... Bye. Brian, penso che hai tipo, cioè, ti devo la vita, ti devo una settimana orribile, cioè nel senso, il fatto che tu mi abbia salvato da una settimana orripilante. Benish che pensa, come posso rendere la prossima settimana di Rox orribile in questo caso? È più Ivan. Entrambi. I owe you everything. Zanzani invece era tipo, let's fuck this up for good, let's make this worse actually. Sì, ero quasi tentato di tirare un incantesimo addosso a Zanzani a un certo punto. Zanzani dormi, fatti di coca e shut the fuck. Vabbè, Zanzan pubblico gli facciamo avere le allucinazioni gratis a Zanzan. Ok, guarda, segui le farfalle. Zanzan è stato carino, comunque. Comunque show ha dimostrato era lì. Womanship. Comunque sì, ho anche io le carte dei tarocchi bianchi, quindi... Io c'ho quelle di Homestuck se dobbiamo pescare tarocchi. No! Fuck no. Comunque, posso dirti la carta prima e la carta... Cioè, ho tagliato il mazzo e quella è la carta che ho pescato. Queste sono le carte che erano accanto. Okay. E il Papa. Yes! Yes. No, non sarebbe. Sarebbe stato letteralmente un hang on, m'lady, e Daya che si fulmina da solo. I can do this myself. Let me take out. E il Papa è il diavolo. Mm-hmm. Oh. Sì. Orario. Ah, scusa, no, vai. Ok. Allora, io vorrei fare Seeking Light con un oggettino piccolo e pensare fortemente a Promethea. Tanto visto che comunque per non andare nell'occhio probabilmente è meglio andare comunque con calma. Oh. Come la gente che va in giro con Maps adesso. Perfetto. Non so se mi vuoi chiedere altro. Comunque il mio obiettivo è appunto cercare questa persona. E... Ok. Onesto, va bene. Mi godo lo spettacolo. Bianca, sei bloccato. Okay. Io lo vedo noi padre. Allora sono okay. Io. You are the problem. Mi scusate. No, la roba di Zanzan è molto semplice. Si avvicina al cadavere di Bea, lo prende, se lo mette tipo in spalla abbastanza delicatamente e lo va a bruciare. Dov'è l'incenso? No, arriva fino al medikit. lo poggia davanti, tipo l'attacca, mette la monetina, preme e lo guarda. E poi guarda tipo gli altri, mette la monetina, accende e guarda gli altri. Ma la monetina, posso chiedere una roba? Ma la monetina viene anche giù quando mette e non funziona? Viene, ok. Non c'entra proprio. Madonna. Oddio. Giro. Perché non va? Silenzio coraggiosissimo. Ci guardiamo tutti quanti le i piedi, tipo. Adesso Zandan si perfora gli occhi e le timpani e fa le Quindi da qualche parte c'è un contratto con un'anima dentro. Esatto. E dove stanno i contratti? La... Vabbè, la ringrazio per la delucidazione, per l'informazione. Mi ricarico bene sulle spalle e esco anch'io dalla cattedrale. E andare col cadavere. Ah, l'outright detto. Va bene. Io avrei delle domande. Giusto un attimo per capirmi. Ma quando sono entrati i soldati e... Cioè adesso se ne sono anche andati. Ok. Ah, ok. Ah. Ok, no, allora ho capito. No, credo che vorrei più che altro parlare con le guardie. In verità, Vorrei parlare con Maria, onestamente. Non posso provare a parlare con lei? Vabbè. Allora io più che altro vorrei andare da un soldato e capire perché non sono riusciti ad entrare nella cattedrale. Sì, ovviamente. Ah, capisco. Quindi avete dovuto sforzare proprio fisicamente le porte. Comprendo. E poi Atone dice: avete già controllato lo stato della principessa? Sì. Ah, capisco. Comprendo. Grazie. Grazie per le informazioni. Ok, allora anche Adone torna un po' lì al suo posto. Posso fare? Vorrebbe parlare... Ma per ridere. Faccio un appunto per ridere. Hai presente i carabinieri che durante le interviste, durante le cose in TV, parlano sempre con un linguaggio estremamente forbito? Ah, quello finto forbito. Quello finto forbito. E si sforzano, ecco. Tantissimo. Posso chiedere che la prossima volta che fai un soldato ci fai il finto forbito? Abbiamo... La situazione si è stata eseguita ed è stata esaurita in loco. Grazie, scusa, sono stupida. Adoro. Ah, dici che non sono gente che è venuta dal sud, che l'hanno stazionata a Oclica? E una volta non l'ho detto io questa cosa. In questo momento Naya è autoflagellamento. Dove era prima per mettersi in mezzo che io, non si è spostato, è lì seduto così che si tiene le ginocchia e non dice, non fa niente. Niente di particolare. Io non mi posso recuperare le cose che ho perso per gli incantesimi andando alla macchinetta, vero? Un altro tipo di fatica. Esatto, ok, niente. Ok, allora niente. Beh, Non particolarmente, cioè nel senso magari ci sono passato, cioè, però non conosco nel dettaglio tutte le, cioè, dato che stiamo andando nei bassi fondi, insomma, direi. Molto bene. Bello. Ok. Per esperienza conviene tipo bussare oppure... comunque, insomma, vorrei usare la frase, insomma, diciamo. Io ho un simbolo comunque da mostrare, quindi faccio vedere, dico, dovrei vedere una certa persona con un'urgenza, se possibile. No, non dovrei essere seguito, tranquillo. Molto bene. Promezia, avrei bisogno di contattarla immediatamente. Il ciottolino luminoso mi ha fatto quasi intuire che dovrebbe essere qui, quindi spero di incontrarla presto. È molto urgente, sono disposta anche a sborsare qualcosa se necessario, però ho bisogno di sentirla. Magari posso anche aspettare, però sarebbe Erindor. O si usava? No, no, ci conosco, però. Ah, però io non sono un tipo figo, quindi vabbè. Lo smilzo. Il merda. Aspetta, vediamo. Sì, dai, dai. Sono così. Beh, sì. Poi la pressa dell'essere ricercato, insomma, è proprio bellissimo. Sì. C'è stato un po' di macello, mettiamola così. Innanzitutto mi hanno trovato come se fosse dei soldati, mi hanno trovato come se fosse niente, quindi è stato un po' problematico. Ci hanno messo dentro una chiesa dove ho incontrato anche una vecchia conoscenza, se si può dire, e ci hanno tenuti confinati lì. È successo poi che un enorme mostro, il sacerdote che doveva curarci, è brillato, ha causato un po' di casini, e grazie a questo casino sono riuscito a sfuggire. Non voglio andare troppo nei dettagli, quindi gli faccio una cosa sommaria. Lo so che non te ne frega niente, infatti potremmo anche contrattare che ti ridò parte di quanto ho pattuito, ma io vorrei sparire dalla circolazione. E vorrei soprattutto capire come mai mi hanno trovato così in fretta. No, però per i motivi che ti avevo spiegato la scorsa volta, si è fallato. Ok, diventa ancora molto più paranoico, molto bene. Ok. Io ho l'idea proprio. Hai qualcosa altro da propormi? Oppure sono. Oppure mi sono lasciato allo sbando. Ah! Poi dite, vabbè, tanto gli aspetto la risposta. Sì. Esattamente. E c'era, come suo maggiordomo, la stessa persona che era in tua compagnia quando ti ho dovuto consegnare quel bellissimo golem. E poi sappiamo entrambi come è andata a finire. Credo che abbia un grosso legame con la. Almeno non so se è ambivalente, cioè vale anche lo stesso per la principessa, ma lui sembra molto connesso verso di lei. Insomma, così. Mm-hmm. Sì, ok. Faccia, ok. Buu! Yeah! Dai, sei the line! Sei! Tette giganti. Scusatemi, tette giganti. Bubba Hancock. Stressarci? Faccio soffermo sul C. Ah, scusa. Oh, questo mi granterebbe dei privilegi non indifferenti, immagino. Ok, suppongo che ne abbia. Dimmi tu. Sentiamo. Sì, sì, me la ricordo. Molti più di quelli che ti ho rivelato. Perché comunque è un maggiordomo, cioè ufficialmente, quindi... Era lui il cliente del Golem, quindi? Immagino. Molto bene. Sì, sì, flashback. intanto gli faccio notare che il motivo per cui ero stato trattenuto era appunto questa malattia infettiva, e quindi, dato che gli ho dato dei sample, gli faccio notare che è meglio che siano trattati con molta cautela. Ah, ok, meno male. Ok, io gli avevo dato, avevo raccolto sia il ratto che mi aveva fatto notare, e avevo raccolto un blood sample del quello che era rimasto appeso, la signorina. Sì, per il momento, mi pare. Senti di molto bene. Adesso i soldati probabilmente trasferiranno da un'altra parte i pazienti, e avrei bisogno di un posto dove stare, insomma, laying low, non so come dirlo in italiano, però sì, comunque mi consegno. Ok, molto bene. E ho la certezza che il nostro caro amico sarà anche con lui, con noi, per via della principessa? O la... No, ok. lo leggo di sfuggita. Ah, Madonna. Ah, conveniente. E allora in tasca. Sì, immagino. No, ma la mia domanda era più specifica. Dici, le trasferiranno lui e la principessa in un altro luogo, secondo te? Rispetto a noi, pazienti, o altro? Ok, molto bene. Non hai ulteriori indizi su dove possa, o comunque abitudini o qualcosa che mi possa indirizzare? Molto bene. Ah. Ok. Molto bene. E lo faccio. Non lo so quanto lo vogliamo quantificare. Quanti sono? Ah, ok, quelli con me. Sì, sì, deposito. Ok. Va bene, direi che mi congedo e cerco di riavvicinarmi alla cattedrale il più velocemente possibile. Magari facendo anche qua, una volta che raggiungo là, faccio il confuso, agitato, dicendo è finito tutto, no, robe del genere. Beh, allora, innanzitutto io un po' balbettando perché chiaramente vedo delle lame e tutto. Beh, come, cioè, non so se te ne eri reso conto che c'era uno strano effetto illusorio. Io ho cercato di scappare per salvare la mia pelle, non per fare qualcos'altro. Infatti stavo cercando di ritornare alla cattedrale. Incredibile. Va a sfogarsi, vabbè. Va a uccidere qualche barbone in qualche viale per sfogarsi. Devo proprio fare Batman, ma peggio. Come mai? Sia mai che qualcuno si dimentichi cosa è successo, Bea. No, no, è forever in hour, ma... Nessuno di voi ci ha mai parlato, quindi voi... ma è proprio autospite. Avete fatto la cosa giusta. No! Beh, ecco, ma... Gli do un abbraccio, io. Sì. Cosa? È il mio token per... È il mio token per Ivan. cosa, scusami? Almeno. No, non è un soldato. È un operaio. Ah, scusa. Adesso Rod come sta? Ha gli occhi curati? No. Esatto. No! Cosa può andare? Io me lo volevo portare a casa. Quindi non è con noi? No. Okay. E Bea! No. Chiedo a Erendor. No, vai. Vai. Ah, chiedo a Erendor perché non è scappato. No, sono stato sgamato. No, niente. Adone vuole solo un attimo fare un check up su Naya. Cioè, Adone ti si avvicina e. Cioè, non so come Naya in questo momento, però ti picchietta un attimo la spalla con un dito e fa... Tutto ok, Naya? Cioè, domanda un po' di circostanza, però. Naya si gira verso di te, ma anche se in teoria di norma in questa situazione ti guarderebbe negli occhi, ha proprio... gli occhi vacui, non sta fissando da nessuna parte... E dice soltanto: è tutta colpa mia. E continua a camminare. Adone si limita a dire: non lo potevi sapere. Però vedendo un po' come stai, ti dice: ne parleremo più tardi se vuoi. Poi ti dà un'altra pacchetta sulla spalla e torna a camminare. Cioè, sì, stava camminando ovviamente, però. Si beve dalla pacca sulla spalla, quindi... Scusami, devo sdrammatizzare, altrimenti piango. Il cavolo, penso. Cavolo, penso. Sì, cavolo. Diete e cavolo. Zucche, ci sono le zucche a ottobre. Ma è vero, io c'ho ancora il mio cavolo. Ma nel 1300 esistevano già le zucche. Arrivano le zucche. Ah, vabbè, madonna, rock questa cosa. Ma, scusami, Bianic, il cavolo che ho trovato non è marcito? Cioè, dopo 5 giorni è ancora bello visto? No, l'ho buttato via, frate. 10 zucche! Diventato... L'hai fatto fermentare. No, no. Zucche dal Messico, raga, anche le zucche vengono dal cazzo di Messico! Grazie, sì, l'ha buttata, Don. No, sai cosa? L'ha fatto mangiare proprio i conigli, tenete cuccioli. Cavolo. Vieni. Noi. Bene. Stiamo camminando? Cavolo cappuccio. Allora io cammino, passo accanto a Erendor e gli tiro un coppino e vado avanti. Grande Ivan, scopiamo. Ecco. Dai, un dilfo per un altro. Silas. Sono stressata. Bene. No, there was only one bed. C'è la turca. Sì. The Dome. Ren cosa vorrebbe fare? Cosa preferirebbe Ren? No, beh, rassicuro gli altri che se ce ne dovesse essere bisogno di staccare il collo, il collo io. È una responsabilità che si prende Zan Zan. Avrebbe fatto anche lei. Damn. Not my problem. Meglio non fare Adone appunto dice nel senso, se questa malattia è infettiva, in ogni caso noi siamo già malati, essere esposti non cambierà la nostra situazione, quindi finché Ren sta bene, non è un pericolo per noi, può rimanere. Ah, giusto, figo. Oddio. Giusto. Il letto di sopra è mio? No, ah, voglio fare lo stesso. Ok. Domanda, io domando se si possono inviare lettere. Bene. Io, vabbè, io dico solo con Erindor in privato. No. Io volevo vabbè, vai. Possiamo no, volevo rifare rimpinzarmi di monete, perché siccome, visto che... sai com'è, se c'è una persona che diventa un robot della morte, vorrei essere preparato, insomma. Non è... Possiamo tenere questo, cioè, se non hai altre cose da fare, perché sono già le 11:30. Cioè, non so se vogliamo, cioè, se questi 4 giorni passano in fretta, se possiamo dirtelo anche in separata sede, cosa c'è. Ah, ok. Mm-mm. Ok. Ok, ok. Ok. Per questo chiedevo se possiamo farlo magari, cioè, e oppure fare la prossima sessione invece di iniziare a fare subito cose, ne facciamo una più chill. Perché farlo adesso secondo me è un po' un peccato, perché è tardi. Ok. Lo sapevo. Io bonderò con chi mi legge il giornale. Adone te lo legge volentieri. Mi potete scrivere anche una lettera a mia moglie. Guarda, Naya ti deve la vita in tutti i sensi possibili, quindi ti do il 5. No worry. Era one way, ma va bene. Sì. In base a quanto vuole chiedermi, direi che va bene. In realtà volevo sapere. Ho chiaramente capito che si è anche fatto ricatturare apposta. Cioè, è abbastanza ovvio dal suo tentativo. E che cosa ha saputo dai nostri amici in comune? Wink wink, gomitata. Allora, io dopo la scenata di praticamente che ha fatto la scorsa volta, cerco comunque di non dirgli tutta la verità, però in un certo senso gli dico: ho provato a fuggire, a nascondermi attraverso la nostra amica in comune, ma anche loro non potevano darmi una mano. Mi hanno consigliato prudenza e che la soluzione migliore fosse semplicemente ritornare a farsi catturare. Rimarremo in contatto. Hai saputo per caso se il maggiordomo della principessa è... Quanto pare il nostro maggiordomo è più importante di quanto sembri. È più importante della nostra signora, del nostro contatto. Ok, ma lavora per loro in questo momento? Non lo so esattamente. Ok. Anzi, tieni gli occhi e le orecchie aperte, se lo rivediamo è meglio tenerlo d'occhio, diciamo. Va bene, te lo farò sapere. Gentilissimo. E io rimetto a farmi le mie alchimie del cazzo. Non ho ancora capito cosa cazzo faccia Erindor, però continua a fare le sue cose. G. ci sono dei libri in sta casa? Devin è con noi, vero? Ok. Devin è con noi, vero? Magari in questi 4 giorni potremmo fare esercizi di alchimia together, che ne so, vediamo. Ah, è così che si dice adesso. Esatto. Vabbè. È token. No, anzi. Viviamo in, porco puttana, viviamo in un mondo in cui almeno l'omofobia non è vista male. Questa è una frase che mi segnerei io. Almeno nel senso, male. Da quello che ho visto, l'omofobia è ok. Essere trans è... È pur esatto. Sempre il 1300, raga. Ah, cazzo, è vero. Stavo pensando... Esiste lo stesso la chiesa. Good God. Oh, porca troia. È proprio così. Musulmano, mica non esiste. No, inventa quelli che vanno fortissimo in America, che continuano a castigarsi per tutto quello che fanno. E no, quegli altri, puritani. Gli Amish, ecco, i puritani. Che sono i peggiori di tutti in assoluto. Ah. Che bello. Thank you. Io faccio la thirst trap mentre qualcuno legge un libro ad alta voce, così sviluppo sia il corpo, il fisico che la mente. O che fai a pezzo nudo, che fai i pesi, sì, davanti, sì, ad Adone. Faccio le trazioni tipo mentre mi leggete i libri. Però è vero, possiamo insegnarti a leggere. Stavo pensando alla stessa cosa. Ma qualcosa saprò anche, cioè qualcuno avrà già provato. Ma ecco, come fa uno a firmare un contratto se non sa scrivere? Impara a firmare. Tipo quando firmi con la c'è... Non ti preoccupare, adesso è la parte culinaria che... Madonna, ti stiamo riempiendo completamente il guidebook, Bianice, non sei contenta? Vabbè, jokes aside, Zanzan si pianta, tipo, si fa la tenda fuori. Yannic? Oh, sai cosa? Mi è venuto un flash. C'è abbastanza sonniferi? No? No? Ok, grazie a Dio. Però allora devo tirar giù... Me li segni tu? Ok. Sì, Sì, va bene. Per favore. Così almeno facciamo su sto cazzo di party. Sì, va benissimo. Dovrebbe essere sì. A posto. Mm-hmm. Non credo in Dio come Naya, quindi. No, vabbè, ci sono. Ok. A Maria, guarda subito, subito. Mamma mia. Non scrivo un cazzo, Maria. Scrivo chi gli ho risparmiato. No, non è vero. Sì, sì. No, quello no. Ma tanto perché ho la paranoia che spino, guardino le lettere tutto, scrivo tipo una roba estremamente generica sul fatto che sono vivo. Sì. Così posso andare a dormire, ti prego, perché bisogna di quindi ho una settimana tranquilla. È ok, ci penso comunque io a rendermi la vita un inferno. Ci fa venire tipo la cagarella tutti quanti. Dio porco. Sì, sì. Bene ragazzi, sono contenta che lei non sia morto. Più o meno. È stato un piacere. Posso dire, Dianic, ce la siamo cavata egregiamente. Che cazzo ti ridi? Eccoci qua, we are so back. We are so back. No! No! Lasciate... No, poverina, mi sono sembrato il team antinato.